Bene, questa capacità di vedere dietro l'apparenza immediata si sviluppa in modo pieno solo nell'intelligenza spirituale. Perché l'intelligenza spirituale non si nutre di pregiudizi, non si nutre di volontà di potenza, non si nutre di orgoglio e di tutte quelle cose che sappiamo. L'intelligenza spirituale fa sì che se noi osserviamo una persona, siccome l'intelligenza spirituale produce un interesse verso la persona, produce amore verso la persona, se voglio il suo bene, sono amico, ho fratellanza, mi prendo cura, questo fa sì che io entro in risonanza con lei. E se entro in risonanza con lei, io divento un pochino quello che è lei. E quindi le mie fonti di incomprensione sono non solo lei, io che divento lei. Quindi dentro di me si formano delle intuizioni su che cosa sta succedendo dentro di lei, sui suoi sentimenti, sulle sue cose. Questo si chiama processo empatico, l'empatia profonda, che in primo luogo è un'empatia corporea. Divento qualcosa che è lei, divento qualcosa. Quindi capite che l'aspetto del vedere in profondità, della visione profonda, che come vi ho detto prima stamattina sulla meditazione, avviene su una mente allenata, eh? Questa è una delle cose più importanti che va sviluppata nell'educazione. Non vale solo per i medici o per i psicologi, vale per una madre. Perché una madre che non entra in risonanza con un bambino, poi lo deve prendere sto bambino e portarlo dai medici, ai psicologi, come un pacchetto. Curami un posto qua, ma ciò che c'è da curare è la relazione con il bambino. Ecco. Dette queste cose. Torniamo alla Byron Katie. Byron Katie ha sviluppato, bionda, occhi azzurri, carina, ha sviluppato una configurazione mente-cervello per cui la sua diagnosi, non solo delle persone, ma di come funziona il mondo, è diventata acuta e profonda, come quella dei maestri orientali. E infatti, quello che lei dice nei suoi libri sono un altro modo di parlare delle stesse cose di cui parla Yogananda, Krishnamurti, Aurobindo e così via, i grandi maestri. Ramakrishna, Ramana Maharshi e così via. Okay? Che erano persone che hanno dedicato tutta la loro vita a pulire i loro occhi in modo da vedere la realtà anziché le loro storie sulla realtà, perché capite, se non vediamo la realtà è perché vediamo le nostre storie sulla realtà, le balle che ci raccontiamo. Ora capite che questo è alla base di tutta la nostra possibilità di stare al mondo? Da Rifkin, un economista, ha scritto 3 anni fa un libro che si chiama Civiltà dell'empatia. Ha detto che la possibilità di sopravvivenza oggi dipende da una sola cosa, dal fatto che l'empatia degli esseri umani, che c'è, naturale, si sviluppi in modo sempre più allargato, fino a che riusciremo a entrare in empatia con le piante, con il mare, con la terra, con tutti gli esseri e naturalmente persino con i nostri familiari. È un economista che dovrebbe ricevere il premio Nobel per la psicologia. Invece c'è uno psicologo che ha preso il premio Nobel per l'economia, che si chiama Kahneman, ma di cui non vi parlo oggi. Però sarebbe carino, Kahneman.